this world alone. Sui beat, foto in Sardegna come un millionaire. Fanculo al billionaire. Fra viver, mori d'infarto con un figlio nerd. Je m'appelle Domber, c'è presente. Tengo i miei testi in mente, no, se non li scrivo li perdo per sempre. Fanculo me, la tua ragazza mena, la mia menava. Adesso si rimane in bagno, dice che lei mi amava. Tempi duri per gli infami, sotterriamo crani. Rap positivo, il mio resta negativo, anche contro esami. Impara dai veterani, ti dicono. Ma in Italia in ogni stupro di gruppo c'è di mezzo un politico. Ali d'argento che cercano loro. Su mani in coro, ancora a fuoco, ancora profondo il mare in cui mi muovo. E per chi ha fatto centro, per chi cerca gli albori. Per ogni amico dentro, per ogni sbirro fuori. Che in questo recito, chi merita alla fine. Scrivo in Sardegna rime mentre oro nel culo delle veline. Rap d'armo. Siti in posto di stamina, siti in posto di stamina. Street candy bar, bar, street candy bar. Non regge poi li leggo fuori, regge poi li leggo fuori. Poi li leggo fuori, poi li leggo fuori. Fitti, se si crea la sintonia. Metto gli ossidi sul tavolo e ti levo l'apatia. Quella che ti porti in giro per le streets dalla mia. Ho un team che al completo ha dei tricks da follia. Mentre tu ti misuri, ma tu più pensi a me più ti usuri. Cerchi compassione ma come sbatti contro dei muri. E non duri contro i puri, condannati più scuri. Giorni da passare curvi sotto il peso dei turni. E tu che scruti ogni mia cazzo di finanza. Resta in peace mentre baffo ogni tag nella tua stanza. Sema Darmon, coppia manco fosse Double Dragon. Rime come calci in faccia sopra il ring dell'Octagon. Comprende, non c'è spazio tu, leva le tende. Faccio un palo con i tuoi testi, parli ma non dici niente. Da occidente ad oriente, lo stivale muore lentamente. Son le note che collegano ogni mente nel mentre. Vivo l'hip hop lontano dai cazzoni, che quando li ho davanti si sollevano i calzoni. Per questo faccio numeri bollati, zero cloni. Per questo che non cago voi che siete dei gioloni, ragazzi. Il web è una risorsa per aprirsi, ma è pieno di personaggi troppo gonfi e mai visti, che fanno troppe bolle tralasciando il vero flavor. Che pensano come suona il proprio nome se si abbrevia. Io scrivo ciò che la mia mente ingegna e porta verso una direction che nessun contratto devia. Da sempre fedele con me stesso e con chi sente. Questa roba comunione nella